Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! E Radio Wombat! Bentornati come tutti i sabati sera su Tonight Alive, sempre qui sulle frequenze e sull'indirizzo della nostra mitica Radio Wombat. Per questo sabato sera speciale qui a Radio Wombat abbiamo anche un ospite che vi presenterà il concerto quasi esclusivo di stasera. Infatti la band di cui andremo a parlare, di cui andremo a sentirci il concerto, sono i mitici Mano Negra, una delle prime formazioni di Manu Chao, e appunto il concerto esclusivo è il concerto che i Mano Negra sono venuti a fare a Firenze, all'allora ex Emerson, il 6 di luglio del 1991. E qui ospite con me c'è l'amico, c'è Carlo, che lo conoscerete, che è il conduttore di Uru, o come vi ricordo Uru ogni venerdì in serata alle 21.30, alle 21.30, alle 9.30, tutti i venerdì, tratta di musica dall'Africa e notizie africane. E stasera Carlo è qui ospite da me a Tonight Alive, appunto, per raccontarci proprio cosa successe quella sera sulle registrazioni e tutto. Un benvenuto a Carlo. Ciao a tutti. Bene, io partirei un po', non lo so, per i pochi sprovveduti, anzi, prima di partire con la solita tiriteria, visto se no vengo bacchettato, ricordiamo giustamente come fare a contattarci per avere, per farci sapere un po' cosa ne pensate della nostra radio, delle trasmissioni, darci qualche feedback, qualche ginocchiata nei denti se c'è qualcosa che non vi piace. Quindi come farete per farci sapere come queste cose? Innanzitutto scriveteci a postawombat@insiberia.net, che è il nostro canale preferito. Poi, se proprio volete essere social, Twitter su twitter.com/radiowombatfi e Facebook con facebook.com/radio-wombat-firenze e avrete una risposta quanto mai celere. Però ecco, boh, ritorniamo un attimo a noi e magari facciamo una breve introduzione per far sapere agli sprovveduti chi sono stati i Mano Negra. E Mano Negra appunto sono stati una band francese il cui leader appunto era Manu Chao, e sono stati attivi più o meno da metà degli anni 80 fino a metà degli anni 90, ecco. Sono stati i primi che hanno coniato il termine pachanga per definire la loro musica. E che cos'è la pachanga? La pachanga è un genere musicale ibrido che è una fusione di diversi generi e tradizioni musicali, specialmente all'interno della musica latina. E appunto i Mano Negra hanno coniato questo termine per intitolare il loro primo album del 1988, che era il loro album di debutto. E secondo quello che avevo trovato io, si può essere definito come confusione, house, un miscuglio, anche se te, Carlo, mi dicevi che non eri molto d'accordo su... Ma sostanzialmente penso sia un termine non propriamente traducibile, ecco, forse lo si avvicina più al miscuglio di generi, appunto, di strumenti, di musica, di suoni, però insomma... Secondo me un po' una forzatura, però vabbè, tutte le etichette è la pachanga. Tutte le etichette alla fine sono un po' una forzatura, no? Sono quelle che appiccicano i critici addosso ai musicisti per tentare di dargli una definizione per riuscire a catalogarli. Ecco. Un po' tutte le definizioni sono delle forzature. E sicuramente una delle principali influenze, come poi potrete sentire anche bene nelle prossime canzoni dei Mano Negra, sono sicuramente i Clash dell'epoca di Sandinista, che mescolarono appunto correnti musicali tra loro assolutamente diversissime, come il punk, lo ska, il reggae, il rock, il flamenco, il funk, la salsa, il rap, il calypso, insomma tutto un grande miscuglio di generi. E una dei grandi particolarità della pachanga dei Mano Negra è stato che non cantavano in una sola lingua, ma hanno cantato in francese, in inglese, in spagnolo. Poi dopo nel proseguire della carriera hanno usato un sacco di altre lingue, come il Wolof, il Rai tunisino. Poi hanno avuto tantissime influenze. Cioè, ho delle canzoni di Manu Chao dove canta anche in italiano, per dire, insomma, sono stati veramente hanno fatto proprio un melting pot nella loro musica. Andiamo ad ascoltarci un altro pezzo, preso questa volta dal primo album da pachanga, ed è Lonesome Bop. Dancing on the lonesome do? E tornate qui, Wombat. E dopo questo pezzaccio, una curiosità che ho trovato in rete, io ad esempio non lo sapevo, da dove hanno ripreso il nome Mano Negra per chiamare appunto la band. E leggevo che Mano Negra in origine nella storia spagnola era una presunta organizzazione anarchica che appunto veniva chiamata la Mano Negra e veniva nell'ultimo quarto del XIX secolo, nella fase finale del XIX secolo, il termine fu usato appunto in Spagna per identificare una presunta organizzazione segreta di anarchici che dette il pretesto al governo liberale di Prajedes Mateo Sagasta, spero di averlo detto bene, gli dette appunto il pretesto per iniziare una spietata repressione nei confronti delle rivendicazioni del proletariato agricolo dell'Andalusia, che proprio in quel periodo stava lottando contro i latifondisti per ottenere le 9 ore giornaliere di lavoro. E ci fu questo famosissimo processo in Spagna nel 1884 che è proprio prende spunto da come pretesto parte da un banale fatto di cronaca nera, che era l'omicidio di un contadino di Jerez della Frontera. E appunto poi venne montato su tutto un processo con prove false, cioè che dopo sono state ovviamente appurate, fossero assolutamente false, contro appunto uno dei leader della lotta per i diritti agricoli nell'Andalusia. E appunto in questo processo farsa poi è andata a finire addirittura con una condanna a ben 15 impiccagioni. E appunto questa organizzazione venne chiamata Mano Negra, questa presunta organizzazione, perché poi insomma erano contadini che stavano lottando, cercando di lottare per ottenere dei diritti nel sud della Spagna. Però ecco, volevo appunto farvi sapere questa curiosità e poi mi butterei proprio a fionda nel farvi conoscere un po' fatti, antefatti e svolgimento di questo concerto del 91 che appunto c'è stato qui a Firenze all'ex Emerson di Via Bardazzi. E appunto ora qui vorrei lasciare la parola a Carlo, che sì, beh, ci può descrivere un po' come sono stati, da dove siamo partiti per arrivare ai Mano Negra in concerto all'ex Emerson, perché allora i Mano Negra erano nel loro apice del successo. Era il 91, era appena uscito King of Bongo. Era appena uscito King of Bongo, che è stato il loro più grande successo come gruppo, quindi insomma un gruppo che a livello europeo era parecchio grosso. Ecco, raccontaci un po' di antefatti. Beh, l'antefatto fu che circa 2 mesi prima, e quindi più o meno ad aprile, ci fu all'Emerson una reunion dei cyber activisti, cioè di tutti quei soggetti che stiamo parlando del 91, quindi dell'inizio diciamo dell'utilizzo del computer da parte dei non addetti ai lavori, e quindi una riunione in cui si cominciò a parlare appunto di reti BBS. Allora ancora non c'era internet, quindi di trasferimenti dati, insomma tutto ciò che atteneva alla computerizzazione, all'informatica, e quindi la possibilità... Stava cominciando a muovere i primi passi verso quella direzione in quel periodo, certo. E quindi la necessità esplorare la possibilità di mettere in rete tramite computer, tramite appunto le reti, le varie situazioni di movimento in Italia. E chiaramente fra i tanti soggetti che partecipavano a questa assemblea ce n'erano diversi che si rifacevano all'area cyberpunk e conseguentemente che conoscevano anche, specialmente da parte dell'area milanese, da parte del gruppo che gravitava intorno a Decoder, che conoscevano anche gli organizzatori dei concerti dell'area del milanese. E nello stesso momento, come una sorta di, in questo caso, di steampunk, il Centro Sociale, alcuni mesi prima di questa reunione di cyber attivisti, fu privato da parte dell'Enel, che allora era il regime di monopolio, dell'energia elettrica. Gli hanno tagliato la corrente, fondamentalmente. E quindi l'acquisto di un mega generatore. Teniamo presente, tra l'altro, in quel periodo ancora non c'erano distributori automatici e quindi già, vero, non è che grossa difficoltà per procurarsi il propellente, diciamo, per far andare il centro sociale, diciamo. Buone vecchie taniche e via. E quindi tutte le macchine, tutti i computer, seppur diciamo primitivi, diciamo, rispetto a come sono adesso, comunque dovevano essere funzionare, per non essere mandati con un generatore, quindi una situazione cyberpunk ma anche molto steampunk, ecco, da questo punto di vista. Sì. E quindi ecco gli stessi soggetti che appunto gravitavano intorno all'organizzazione di concerti l'area milanese erano gli stessi soggetti che avevano sperimentato in prima persona il centro sociale la necessità di avere un generatore di corrente sicuro, affidabile e che desse continuità. E quindi anche una riserva, ecco, un piccolo generatorino. Sì. E quella è stata la noi lo acquistammo e ci trovammo con grossa difficoltà da un punto di vista economico. Ecco, per cui la proposta da parte dei compagni, diciamo, dell'area milanese, conoscendo appunto chi aveva organizzato concerti a Milano, fu quella di fare un concerto live di Mano Negra. Dall'altra parte c'era questa grossa disponibilità da parte di Manu Chao e comunque di tutti i componenti di Mano Negra. Comunque questo concerto era concepito come benefit, esatto, di fare per benefit per il centro sociale, appunto. Loro lo sapevano, non chiesero assolutamente, pagarono anche le birre che bevettero, non chiesero assolutamente niente. Pensate, no? Infatti loro già precedentemente avevano chiesto, diciamo, perché mi sembra fecero due date, basta, una a Milano, una a Roma, comunque pochissime date, o comunque di passaggio a nord andando dalla Francia all'Austria, non me lo ricordo bene questo. E quindi chiesero di fare una data in un posto in cui il contatto nel pubblico era veramente vicino, ecco, veramente il pubblico contatto, era sul palco, veramente contatto. E noi abbastanza intimoriti da un lato dalla possibilità, però nello stesso momento dalla necessità di organizzare un concerto in un, appunto, mi ha detto prima il conduttore, una delle band più famose in quel periodo e di una delle band che ci piacevano assolutamente. Ci piacevano perché al di là del tipo di musica, al di là del... Sono sempre stati molto vicini al movimento, hanno sempre suonato per i centri sociali, per le tematiche stesse, le tematiche sociali, sono sempre stati comunque molto vicini al movimento. Infatti ricordiamo anche la partecipazione, poi quello che sarà stato tanti anni dopo, però una storica partecipazione di quello che allora era da solo Manu Chao. Nel 2001 ha suonato al G8 di Genova Manu Chao, infatti, a testimonianza appunto sempre della vicinanza verso il movimento, ecco. Quindi pensate, un gruppo che ha già un ottimo riscontro a livello europeo, perché dopo era il tour, stavano promuovendo King of Bongo, che è stato forse il più grande successo della band, andavano in giro in tutta Europa e sono venuti anche a Firenze a dare una mano per il benefit dell'allora ex Emerson, ecco, grandissimi. E da parte nostra noi decidemmo di fare il concerto nonostante forse fosse luglio, e quindi paventavamo un'atmosfera veramente calda, veramente infernale. Non so se si sente nei pezzi che manderemo in onda, però insomma, Manuccia spesso dice mucho calor. E l'unica condizione che ci temo tra di noi, quella che andrà stasera, è la registrazione originale di quella sera, eh? L'unica condizione che ci siamo dati noi è che non avremmo pubblicizzato il concerto se non una mezz'oretta prima una radio fiorentina. Anche perché se no, potete immaginare, cioè, ci sarebbe stato veramente un'invasione del nord-ovest di Firenze se fosse venuta a sapere che appunto in quel periodo ci sarebbe stato un concerto dei Mano Negra gratuito a Firenze, cioè praticamente gratuito, con un piccolo contributo per il benefit del centro sociale. Sarebbe successo il finimondo, ecco. Ora vi farei sentire io un altro, per far riprendere un attimino fiato, vi farei sentire un bel pezzo in francese, sempre dei Mano Negra, che ci raccontano un po' com'era la notte a Parigi. Sentiamoci Paris la nuit. Tenez, regardez. Les petites lumières. Les petites lumières de minuit matin. Personne pour hurler la nuit, que le vieux clochard sous pont de Marie. Dans la rivière, plus des matons, les apaches sont en prison. Tout est si calme, ça sent le pourri. Paris va crever d'ennui. Restons s'il vous plaît. Paris se meurt. De nuit, Bébert et Wally. Se finì, e ritorniamo da Parigi, torniamo qui in studio a Radio Wombat per far continuare appunto la cronaca di come è andato, di come si è svolto quel concerto ormai un po' di anni fa. Siamo arrivati che, insomma, nelle fasi preparatorie Carlo ci ha già descritto di come hanno fatto, di come sono arrivati i Mano Negra all'Emerson, e ora siamo ormai alle porte del concerto, no? Alla sera del concerto. Eh sì, siamo al 6 luglio e allora abbiamo fatto i concerti il giorno prima, ripartirono la mattina da Milano verso le 3 di pomeriggio, noi eravamo lì a aspettare, arrivò questo pullman con scritto Mano Negra grande, e tra l'altro ci avevano pure un mega striscione, poi fu messo dal secondo piano del centro sociale, praticamente copriva mezza facciata del centro sociale in via Bardazzi. E niente, cominciamo a parlare un po' sulla situazione sociale, politica in generale, non è che pensiamo tanto ai concerti, neppure loro si preoccuparono più di tanto, diciamo, di cominciare a fare subito i suoni. E cominciamo a parlare una pacianca di linguaggi, immagino, di lingue. Sì, immagino persone molto alla mano. Sì, una pacianca di lingue, un po' in inglese, un po' in francese, un po' in spagnolo. Manuscià parlava anche un po' di italiano, ma non tanto, insomma, non in grado, diciamo, di reggere una conversazione ogni tanto, come va, tutto bene, insomma, comunque anche lì, diciamo, una pacianca di linguaggi e niente, loro ci dissero, successivamente affrontiamo un po' la questione del concerto, e loro ci dissero che avrebbero privilegiato, cioè avrebbero fatto tutta la loro scaletta, che comunque avrebbero privilegiato, perché appunto erano in una situazione, nel centro sociale, comunque un contatto del pubblico, i pezzi rock and roll, diciamo delle diverse cover che poi appunto si sentiranno nel concerto. Rimetteremo anche la scaletta. E diversi riferimenti anche ai Clash, diciamo, anche di cui faranno alcune diverse cover. E la cosa buffa fu che loro iniziarono a provare alle 6, alle 7 di pomeriggio, e sostanzialmente da allora è iniziato il concerto, perché sì, ci si mise un po' ad accordare i suoni. Non ci fu uno stacco, perché loro cominciarono a provare, gli piaceva, cominciò ad arrivare gente fin dall'8 di pomeriggio, e tutto a un tratto si arrivò all'8 e mezzo circa, alle 9, che era già quasi pieno. E quindi non c'era nemmeno più la possibilità, diciamo, di togliere la strumentazione. Insomma, loro andarono a diritto, iniziarono alle 6, alle 7, delle cover, dei pezzi giusto per provare, di Elvis Presley, Georgia Brown, e via dicendo, insomma, no? Anche Elvis, sì, fatto. Eddie Crocker, insomma, un rock and roll, rockabilly, sì, giustamente. E poi cominciarono praticamente dalle 6 e mezzo circa, cominciarono a suonare e finirono a mezzanotte e mezzo, più o meno 6 ore. Boia. 6 ore di cui quello che noi abbiamo considerato il concerto vero e proprio. Non ci saranno tutte le 6 ore stasera, è un estratto, mi sembra, di quanto? Quelle che noi abbiamo considerato il concerto vero e proprio sono circa sulle 3 ore. E noi ci troviamo, ma tenendo presente che la registrazione però è un paio d'ore, se non mi sbaglio. Sì, perché tra l'altro avevamo grosse difficoltà anche per registrare, non c'era la strumentazione di ora, e soprattutto anche quella che c'era costava tantissimo, cioè non era accessibile, diciamo, come può essere accessibile ora. E nello stesso momento, anche se potevamo permetterci qualcosa in più con un piccolo sforzo finanziario, però dovete tenere presente che il concerto era un benefit per un generatore che sostanzialmente aveva prosciugato le magre casse del centro sociale. Le magre casse erano state fatte quei pochi soldini, si parla ancora di lire, che erano stati accumulati con i benefit precedenti, con le sottoscrizioni e via dicendo. Quindi niente, loro cominciarono a provare. A un certo punto noi si cominciò a registrare il concerto, che è registrato non direttamente dal mixer, quindi senza la possibilità di una strumentazione che catturasse suono ai vivo, in cui però si sente la bolgia, diciamo, che entra si sente il live, i microfoni, che poi dopo viene rimandata ai mixer. E poi tra l'altro c'è anche questo, con una registrazione artigianale con una videocamera VHS, in questo caso fissa, e che è dove c'è la postazione, dove c'è il MIS, perché in via Bardazzi, a differenza in via da Tolentino successivamente e in via di Bellagio, dove attualmente in Est Emerson, non più l'ex Emerson, in Est Emerson, la postazione MIS era sopra, era su un castelletto di tubi innocenti, e quindi dall'alto si vedeva, insomma, diciamo, il posizione dominante, il concerto. E quindi e niente, e loro tra le tante cose ci dissero, siccome ci avevano due o tre soggetti, i gruppi sostanzialmente, oltre a montare, li dovevano sotto certi aspetti difendere, tra virgolette, dall'assalto dei fan di chi ascoltava il concerto. Loro ci chiesero, non gli sarebbe fregato niente se la gente saliva sul palco. Però un po' di cordone, però un po' di una fila di cordone di baldi, sì, giovani, sì, una che fila. Poi sono, io ero, che poi sono stati io certo scavalcati. Sì, io ero tra quelli, diciamo, che doveva stare un po' dietro, diciamo, alla gestione generale del concerto, però a un certo punto non me ne fregò più di tanto. Tutta andai a ballare sotto, e via. E sarà una ventina. Che ci prendemmo, cioè, uno stage diving, che non solo uno stage diving, ma anche una platea diving, cioè che la gente si buttava sul palco e più delle volte atterrava sulle nostre schiene, cioè sulle schiene dei 20 che erano lì più o meno con saldati, imbullettati, a fare da materasso per lo stage diving. Con i gomiti agli avambracci, sì, sul palco. Fantastico. È un caldo infernale, non solo per loro, m'immagino, ma anche per noi, sostanzialmente. Mi immagino dentro un centro sociale. Le mutande. Poi fu buttato giù anche una parete. Il 6 di luglio a Firenze, di legno, dentro una fabbrica, l'essere della morte. Fu buttata giù anche una parete di legno. E poi mi ricordo questa fila, ancora ero, diciamo, tra l'entrata e la stanza dei concerti, mi ricordo questa fila pazzesca, disciplinata, perché tutti si rendevano conto, autodisciplinata, perché tutti si rendevano conto che se non si stava la fila, noi non ci pensavamo assolutamente a disciplinare la fila, però una fila disciplinata che incredibilmente disciplinata. Da metà di via Bardazzi, con una sorta di blocco stradale, arrivava fino ai giardini di Piazza Medaglie d'Oro. Alcuni, molti, rimasero fuori, però, diciamo, la cosa fu abbastanza tranquilla, anche perché loro, io a un certo punto, verso le 2-3 di notte, venni via, però, perché ero stanco, perché il giorno dopo, tra l'altro, mi sembra, dovevo andare anche da un'iniziativa, però loro rimasero, pur non salendo più, rimasero lì, al centro sociale. E chi rimase mi disse, poi sono rimontati direttamente sui pullman per la data successiva alle 8 la mattina, un po' di spuntino su pullman, in cui invitarono tutti quelli che erano riusciti, certo, avevano resistito, era più o meno un centinaio di persone, e appunto la scaletta grande. Hanno offerto anche il rinfresco finale? Questo non lo so, perché io non c'ero. Sarebbero stati veramente dei miti. Cioè. E poi appunto la scaletta, noi abbiamo estrapolato un'ora e venti circa, un'ora e quaranta. Sì, mi sembra sia intorno a un'ora e quaranta la registrazione. Perché e tra l'altro di due pezzi, che sono pezzi della tradizione, diciamo, gitana, comunque non essendoci una, anche questo è cover, diciamo, di pezzi folk sostanzialmente, e quindi del folk gitano, sì. Mano Negra l'hanno rifatta tre volte, perché sostanzialmente l'hanno utilizzata, ho visto che nella scaletta c'era delle riferimenti, l'hanno utilizzata sostanzialmente come colonna sonora, del concerto. È un concerto, io ho visto, no? Loro non avevano assolutamente la scaletta, no? Il classico pezzo, il foglio o di cartone, di foglio su scritto una scaletta. Si sono fatti prendere dal momento e dall'ispirazione. Loro hanno fatto questi primi pezzi, quasi come prova suoni di rock and roll. Poi sono andati un po' di cover di pezzi un po' più famosi che loro già comunque avevano eseguito negli altri concerti, poi pezzi loro, però mi ricordo chiaramente che prima di ogni pezzo si parlava tra di loro per stabilire l'accordo e l'inizio del pezzo successivo, che siccome non era assolutamente programmato, era un po' rispetto anche al momento, alla tensione, alla situazione del momento, se era un momento diciamo di ghiacciare, per quanto fosse possibile ghiacciare gli anime, quindi un pezzo un po' più paridenuito, oppure una pascianca un po' più scatenata, ecco. Cioè, e loro tra l'altro erano giovanissimi, cioè erano poco più grandi di noi, ecco, oppure più o meno era il loro terzo album, sì, e quindi erano proprio dei ragazzetti, quindi, ecco, sì. C'era questo componente del gruppo Roger che stava al basso e che veniva continuamente chiamato, ora non mi ricordo se ne pezzi si sente, insomma dicono Savao, cioè, e niente, forse tra l'altro, ora non mi ricordo esattamente perché non vorrei dire una cosa per un'altra, però tanto uno dei Mano Negra era il fratello e l'altro era un cugino di Manu Chao, quindi ci sta che si fossero presi, si prendessero per i fondelli tra parenti, ecco. Mandiamo un altro pezzo dei Mano Negra prima di partire con il concerto e con la fase finale della trasmissione. E ora un altro pezzo in francese, Passe toi, sempre Mano Negra, Radio Wombat. J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me passer de toi, comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me passer de toi. Tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas, je peux très bien me comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, je peux très bien me comme envie de sang sur les murs, comme envie de crever ton chat, comme envie d'accident. Je peux très bien me passer de toi. Je peux très bien me passer de toi. Passer de toi. Passer de toi. Passer de toi. Passer de toi. Ed eccoci tornati per sentire un po' poi come è andata a finire questa serata del concerto, questo storico concerto che c'è stato all'ex Emerson di Via Bardazzi nel 1991. Beh, è finita bene, nel senso che il concerto è stato bellissimo e siamo riusciti a pagare il generatore e quindi fino a che non c'è stato lo sgombero nel luglio, due anni dopo precisi, nel luglio del 93, il generatore che tutte le volte spassava davanti qualcuno si ricordava appunto dei de concerti. Il generatore è durato fino al giorno dello sgombero, sostanzialmente. E ci sono stati anche un concerto che diciamo è rimasto underground, però per quelli l'hanno visto, l'hanno udito, o per quelli ne sono venuti a sapere, è rimasto un po' un concerto importante, insomma, un concerto, tant'è che c'è stato un articolo sulla Nazione o Repubblica due o tre giorni dopo che addirittura, insomma, anche giornali così mainstream, sì, perché c'era mi sembra su Repubblica, non ne sono sicuro, non voglio sbagliare, comunque un redattore della pagina, diciamo la pagina culturale, frequentava i concerti del Centro Sociale, fece questo bellissimo articolo, secondo me, che è rimasto l'unica, una mosca bianca, diciamo, per ambedue i giornali. E io ho cercato di ritrovarlo, non sono riuscito a trovarlo, però digitando appunto con il solito motore di ricerca ho trovato un articolo del 2003 di Repubblica in cui viene fatto, diciamo, nella loro maniera sostanzialmente un excursus su quelle sono le culture alternative a Firenze. Viene parlato anche del Nestemer, dell'Exemers ancora, e tra parentesi, oltre a indicare quelle che sono le attività del Centro Sociale, viene, e quindi per questo penso che sia stato Repubblica, il giornale l'aveva pubblicato, viene ricordato questo concerto con degli aggettivi altisonanti e comunque secondo me rendono un po' l'idea. E fu stato fatto anche delle cassette che furono, perché ancora, diciamo, la strumentazione a nostra disposizione era quella, che andarono a integrare il fondo cassa per comprare questo generatore. Ne furono vendute talmente tante, tenete presente che venivano registrate una alla volta, ne furono vendute talmente tante, circa un anno e mezzo, due anni dopo fu fatto anche un CD che a sua volta veniva Barn, viene, perché appunto in quel periodo era veramente Barn, ne bruciavamo uno su stonfo. Due, e quindi veniva fatto una copia alla volta, e poi successivamente è stato il nome era perfetto, infatti è stato riversato in MP3, tra l'altro il CD diciamo risente, cioè non è che è stato assolutamente, che poi mi dicevi, anzi poi rifatto. Ho anche ricontrollato che per chi fosse interessato era stata fatta anche un'opera di ridigitalizzazione appunto del video del concerto, che per chi fosse interessato a vedersi anche le immagini dell'epoca è rintracciabile su archive.org perché sì, appunto digitando Mano Negra, perché poi è stato ridigitalizzato. Sì, l'archivio 68, infatti su archive.org c'è il concerto di Mano Negra, ci sono anche le digitalizzazioni video di altre iniziative del Centro Sociale Next Emerson, perché appunto l'archivio 68 ha digitalizzato svariati VHS, non soltanto del Next Emerson, ma diciamo, di svariate situazioni che in quel periodo hanno registrato tramite videocamera, VHS, le varie iniziative, e quindi c'è proprio una pagina gestita dall'archivio 68 in cui c'è anche il concerto di Mano Negra. E comunque, recitando Mano Negra Live, mi sembra che oggi la CSA Ex Emerson, comunque sì, mettete andando le un po', chiave, ecco, e poi lo trovate comunque, ecco. Un minimo di pazienza lo troverete quasi subito. Si trova abbastanza facile. Non direi che ormai non resta che vi voglio ricordare appunto le trasmissioni in cui potete sentire Carlo, che ovviamente è Uru insieme alla Manola il venerdì alle 9:30, che parla di tutta la situazione africana con fatti e musiche appunto dall'Africa, e anche il nuovo un recente innesto della radio, che è tutti i giorni, cioè viene registrato una volta e poi viene rimandato tutti i giorni alla stessa ora? No? No. Com'è no, diciamo, allora, visto che ci siamo, facciamo un po'... di quelle ci ricordiamo, anzi ce l'abbiamo davanti, il palinsesto di Radio Wombat, diciamo il palinsesto del sabato e della domenica. Il palinsesto del sabato, questo lo voglio dire perché il conduttore si è scordato di dire che Tonight Alive va in onda in diretta il sabato alle 21.30, però ci sono anche le repliche in cui potete ascoltare la puntata precedente, cioè che è il giovedì sempre per i seriali alle 10.30, come anche il giovedì è alle 10.30 appunto. Mentre invece Uhuru va in onda il venerdì alle 21.30 in diretta, suoni e notizie dall'Africa, e in replica in questo caso la domenica alle 10 e il lunedì alle 14. Alle 14. Perfetto. E allora non ricordiamoci, ci sono arrivate, come si suol dire, due veline per ricordarvi che sabato 3 giugno alle ore 9 al CSA Next Emerson di Via di Bellagio ci sarà la presentazione di Attraverso con l'autore Luca Kirikiu, prima ci sarà la pericena alle ore 20, poi la presentazione della rivista Attraverso, e poi alle ore 10 ci sarà Concerti Ribelli. E poi avevi l'altra velina è che il 27 e 28 maggio, quindi il primo giorno è stato oggi pomeriggio, sì. Quindi domani, e poi 3, 4 e 10 e 11 giugno, cioè il weekend, dalle 16 alle 20, questa mostra informativa sulle due aree dismesse del quartiere di Castello, cioè l'ex Cerdec e l'ex Eves, sono 83.000 metri quadri, quindi questa mostra informativa per sostanzialmente per informare gli abitanti su quello che sta accadendo sulle due aree, e quindi sostanzialmente per il sottotitolo diciamo della mostra è contro cementificazione e problemi per il quartiere, per spazi verdi e servizi pubblici e gratuiti, con documentazione, pubblicazione sui quartieri e scambio libri. E tutto al giardino del Circolo di Castello in via Reginaldo Giuliani, che è proprio lì dove ci sono le due aree dismesse, di cui c'è questa mostra informativa. Bene, dopo questa parentesi di informazione, non mi resta che lasciarvi al concerto dei Mano Negra del luglio 6 luglio del, 1991 del 6 luglio del 1991, e noi che rinnovare l'appuntamento per sabato prossimo, se volete sentire la replica di giovedì, sempre in entrambi i casi alle ore 22.30. Un saluto. Sì, no, lo dico io per il conduttore. Ce lo dica. Wombat.noblogs.org, certo. Dove c'è lo streaming, i podcast e tutte le notizie sulla radio, sul palinsesto, sulle eventuali iniziative della radio. Benefit, quando saranno gli adesivi, le magliette, insomma, tra poco arriveranno. E ricordiamo allora a questo punto, anche prima dei saluti, la posta wombat@insiberia.net, e ora Mano Negra al CSA ex Emerson il 6 luglio del 1991. A sabato prossimo è Wombat. Ciao ciao. Vamo Carmasito, ahí viene. Going down south to Africa, vamos a morir. Thank you. Radio Palmoro Moreno. سيدي حبيبي هو شحريري هو غادي مني هو حبيبي ما تنساني هي لي حبيبي تير فلوى سيدي حبيبي هو مش حريري هو غادي مني هو حبيبي ما تنساني هيلا حبيبي تير فلوى هيلا هيلا حبيبي تير فلوى هيلا هيلا حبيبي تير فلوى هيلا هيلا حبيبي تير فلوى هيلا هيلا حبيبي تير فلوى هيلا هيلا حبيبي تير فلوى هيلا هيلا حبيبي تير فلوى I'm gonna be. Rastasha, Rastate. Moreno, faccia castare. Vamos ya Moreno. E Firenze. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. mano negra. Ma mano negra. Ok guys, thank you. Grazie. We're back in 5 minutes. It's time for oxygen now. Et Roger. Et where is Roger Cajou? Cajou. Au trombone, Crumple premier. Salut. Crumple premier. Regardez-le, il est beau. Il est tout frais. À la guitare, Roger Cajou. On l'applaudit. Grazie. Are you ready? Okay. Por favor, no me dejes morir en vida. Tú me estás dando. a la vida ya dice atrás mi corazón. Que me hace porque te digo también. Tú me hablas como un cabrón. Dame mi corazón, estás sufriendo. Dame mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando, me estás dando a la vida ya dice atrás mi corazón. Que me hace porque te digo también. Oh cabrón, me está dando, me está dando. Mi corazón. Mi corazón. Vamos ya, amores. ¡Chale! Dando mala vida y yo pronto me voy a escapar. Gitana mía, por lo menos date cuenta. Gitana mía, por favor, no me deja ni respirar. Tú me estás dando, me estás dando mala vida. Ya dice atrás mi corazón. Ya dice atrás mi corazón. Ya dice atrás mi corazón. Ya dice atrás mi corazón, ya dice atrás mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. ¡Vamos, hermano! Mi corazón. Yo, everybody for the Junkie Beats, I think. parti, y a plus un bruit, pas plus que celui qui rend mélo. Le bruit du frigo. Et je prends un verre pour l'oublier, et je mets ma tête sous l'oreiller pour éviter d'entendre pleurer ce frigidaire. Puis voilà qui se met à faire froid. J'en verse ma bière sur l'oreiller. Et toi t'aimais plus l'après de moi à devenir folle et à dire que je pue. J'entends plus rien, j'ai le bruit du frigo. Allez, bon. Tout à coup, persécuté par ce bruit sourd, et en voûtant, je deviens fou, et je me jette par la fenêtre. Quand y'a plus rien, qu'elle est partie, y'a plus un bruit, mais plus celui qui rend mélo. walking on a railroad track. This is a letter. Au cœur de la ville endormie repose des millions de gens soumis. Personne ne tourne la nuit, que le vieux très cher sous le pont de Marie. Des matons, tous les apaches sont en prison. Tout aussi calme, ça sent pourri. Paris va crever dans lui. Le baron qui règne à la mairie veut que tout le monde aille au lit sans bruit. Les lits qui meurent sont interdits. On plaît, c'est toléré, merci. Allons enfants de la patrie, contre nous de la tyrannie. Quand nous avons de ceux élus par nos sinistres fous. gracias. Ok. Ok, this is Joe. He's gonna sing the last one for you now, Moreno. Yeah, thank you. Ok, Roger. Allez Roger. It is a last chance. Je reviendrai. Un jour chez toi. Pour te serrer fort dans mes bras. Je reviendrai un jour chez toi, pour te serrer fort dans mes bras. Tu es parti un beau matin, maintenant je suis plein de chagrin. ma mano negra. Are you ready for, you ready for the magic toys? La machaca, the sticky sand. La machaca, che mi duro tu sangue. La machaca, the sticky sand. La machaca, che mi duro tu sangue. Quando a fammi a magic toys, does that always talking choice? Never, never, so be lois. Nois, nois, nois. Come on, you guys, la machaca, the sticky sand. La machaca, che mi duro tu sangue. La machaca, the sticky sand. La machaca, che mi duro tu sangue. Moreno, va bene. No, no, no, no, never let me my own, my only voice. Never, never, don't be lost. No, no, no, don't be lost. La machaca, the sticky sand. La machaca, chipping around the sand. La machaca, the sticky sand. La machaca, chipping around the sand. Indiana Road, that blue dragon, I thought of before. Cowboy sets on a 9-9, gonna beat the bird to the end of the line. Gentlemen, I have done a two-field. Peace, I said, on the top of the hill. Never to stay in line. Dragon, Thunderbird, never met a sign. Two-field was a really small town. And ran to another niggas around. Some sort of pleasure, but a savage one. I'm a double catch on gas. They know I'm a feeling the wheeze. There's no body's fees. All of a sudden there's walls on the road. I said, no, I'm dragging the thunder before. It was coming on the diamond bridge. Through the famous passion in Thunderbird saw the seven yen in speed. You got drag when pulling the lead. Jack was dead when one of the rest said, back around the bird like a saber jet. Came from the level of the yard behind. Keep my mask to the candle line. Coming on the diamond bridge through the finish, pushing it. Thunderbirds on the Chevy Jenny's piece. Keep that drag when pulling through. Jaguar said when wondering said, back around the bird like a saber chair. Shame on Bubba but the yard behind. Bubba to Bubba on the side by side. Bubba to Bubba on the side by side. Slow down, Jaguar, cheek through, but I'm a fool. Slow down, Jaguar, cheek through, but I'm a fool. It's time to move that. It's time to move that. ridicule dans le même temps. Tokyo. Mucho calor, hermano, mucho calor. Aquí falta aire, moreno. Stop moaning. Stop complaining. Stop show. It's time to go. Taking drugs, stop lying, stop the show. It's time to go, it's time to fight, get in the day. They wanna question you, don't let them do. Don't be dumb, don't be blind, don't be TV junkie, don't be sorry. Stop crying, stop panning, stop crying, stop saying. What's up? Don't be dumb, don't be blind, don't be so cute. Don't be no shoot, don't be no donk, and don't fall asleep, don't be okay. What's up, what's up? Wake up, wake up. What's up, what's up? Wake up, wake up. What's up, what's up? Wake up, wake up. What's up, what's up? Wake up, wake up. What's up, what's up? Wake up, wake up. What's up, what's up? Wake up, wake up. They wanna crush you. Don't let them do. They wanna crush you. There's men downstairs, there's men to the bed, and one across the street, so the friends we got with it, they will give you home. So baby, baby, get out of my life. You're leaving, leaving out of my heart. I don't want you. Now baby, baby, get out, get out of my life. You're leaving, hey, out of my heart. Don't want you no more, baby. Here we go now. I don't want you. I don't want you, I don't want you, I don't want you. It's serve you right to suffer, baby. Well, it's serve you right to be alone. Come on. Say what? Set up. Set play. What set play? I don't want you. I don't want you. I said, baby, baby, get out of the life you're living. Out of my heart. Yeah. I don't want you. Now ball, baby. I don't want you. I don't want you. I don't want you. I don't want you. I'm going to get out of here. She was standing on the edge. She was ready to fall down. Carrying on the stage numbers. Pretend to do them. And she was down there on the spinny dance. And the uptown grabs it. It's a non-man, non-man, semi-human dance. Missing on a long tour, I've got a broken heart, but missing on a long tour. When the music stops, she kept on doing the rock. I said, it's time to go, stop dancing like a cuckoo. She was calling on the floor when the jungle door left her lying in the street, not hit me anymore. Said, missing on a long tour, I've got a broken heart, missing on a long tour. She was nodding on the edge, she was ready to fool them. Carrying on the sledge, the boost, boost, and chocolate. And she went down, down on the spinny dance. Like a time blanket, it's a non-man, non-man, semi-human dance. Say, dancing on the long term, I've got a broken heart. Missing on the long term, dancing on the long term, I've got a broken heart. Missing on the long term, missing on the long term, I've got a broken heart. Missing on the long term. Rock and roll line. Rattle, rattle. Well, about Rock and Roll Line. Ride on, ride on. It is the story about Rock and Roll Line. Ride on, ride on. Rockin' on line, it's a mighty good road. Rockin' on line, it's a road to ride. Rockin' on line, it's a mighty good road. Want to ride, I got to ride it. I can finally get a ticket to the station. Rockin' on line. Rockin' on line, it's a mighty good road. Rockin' on line, it's a road to ride. Rockin' on line, it's a mighty good road. Want to ride, I got to ride it. I can finally get a ticket to the station. I'm rockin' on line. Wait a minute. Molto calore Firenze, olè. Now listen to the beat of the song. listen to the beat. And the circus buzzing all around, everywhere I saw. One, two, three. This place is too hot, man. Agua pa' todo, vamos allá. Bueno, vamos ya. Esta es la noche de acción, Moreno. A ver si es verdad. Antonio, los hijos de Barcelona. Barcelona, somos yo que quiero venir. Barcelona, Barcelona. Barcelona. Barcelona. gonna get a check, check, check. Into the Barcelona, supposed to get on it. Arizona, into the Barcelona, supposed to get on it. Okay, we're gonna stop 5 minutes. See you in 5 minutes. Mi cuerpo, lo frío de un mundo sin volverte a ver. Y llora el pájaro muerto, volando miles para el infierno, donde vive de consolar los que de ti se han alejado. Y llora el pájaro muerto, y llora el pájaro muerto, el que yo nunca. Down by the river, right away, pussy got bad, never seen the cure. Cruising downtown, eyes full of anger, can't hurt you that we find another cure. Spit on your butter, wrap your bread from the goose, goose, and the slug in your brother. Cure. Cure. Those bass need a scratch leg. Those bass need a scratch leg. Those bass need a scratch leg. Stop to me! Vamo Firenze! Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat!